solo una stanza vuota, chiusa la finestra spalancata sul mondo che mi appare strano. Spesso mi sento come fossi un alieno con le idee tarate sopra un altro piano. Fuori c'è calma, una brezza mi rinfresca la giornata di sole che mi sta aspettando. Suoni animali in armonia con la natura, loro il mondo non appare poi così strano. La mia esistenza è dettata da valori condivisi solo da una lieve minoranza. Ciò nonostante riesco a esprimere i miei pensieri per ora solo dentro questa stanza. Fuori è difficile, i valori sono stupidi come le persone dentro cui albergano. Non mi farò condizionare dalla situazione superficiale che ci sta circondando. Se all'apparenza sembrerò integrato nella strana situazione si sta disegnando, continuerò ad essere solo una stanza vuota chiusa, la finestra spalancata. Mi sembra proprio strano. Oh, oh, oh. Mi sembra proprio strano. Oh, oh, oh. Mi sembra proprio strano. Oh, oh, oh. Estraniato dal mondo.